Refuge. dopo un'assenza di ben 3 anni, che è un periodo abbastanza lungo per The Church, sono tornati gli australiani con un nuovo disco e dal titolo, come spesso ci hanno abituato loro, piuttosto particolare e lungo, Man, Woman, Life, Death, Infinity. E, che dire, che Steve Kilby, il cantante, bassista e autore dei testi di questa formazione, dice che è il disco dell'acqua dei Church. Speriamo che non si buttino nella questione dei quattro elementi come il Litfiba, che poi non ne venivano più fuori, ma comunque, a parte gli scherzi, lui dice, leggo dal sito dei Church: immagino che l'acqua sia il mio elemento. Mi sono sempre meravigliato del mare, dei fiumi, della pioggia. Non è una cosa conscia. È una preoccupazione che troviamo appunto all'interno di questo disco. Cosa significhi? Io non lo so. Effettivamente, l'ispirazione di questo disco, che è piuttosto liquido e riporta un po' ai Church del passato, dopo questa parentesi del disco precedente, che si era avvicinato molto a suoni invece più shoegaze, più sperimentali. Beh, conosciamo i Church, sappiamo che a loro piace cambiare spesso e passare da periodi dove appunto il loro senso per la melodia è molto spiccato, ad altri in cui preferiscono buttarsi su cose ben più psichedeliche e più ricercate a livello quasi di ricerca sonora, appunto. E dei Church abbiamo appena terminato di ascoltare Before the Deluge, e poco prima della pausa pubblicitaria invece il brano che chiudeva l'intero lavoro, ovvero Dark Watts. Ben che vanno e ben che vengono, ci sono formazioni che durano decenni, come quella di Steve Kilby, appunto i Church, che ormai sono con noi da fine anni 70, primi anni 80. È una formazione che non ha mai poi deluso i fan, per cui ogni uscita è un'uscita importante. E ci sono invece formazioni come quella dei Pale Saints, che durano lo spazio di 3 dischi, e pur lasciando un bel ricordo di loro, non sono mai riusciti ad avere un successo comunque, seppur minimo, perché poi, appunto, ognuno se n'è andato per la sua strada e comunque sono riusciti a dare alle stampe 3 dischi interessanti come The Comforts of Madness, In Ribbons e Slow Buildings nell'arco di 4 anni. Poi c'è stata questa raccolta interessante che si chiama Mrs. Dolphin, uscita nel 90 per raccogliere due EP che altrimenti sarebbero andati persi nel dimenticatoio, ovvero Barging into the Presence of God e Half Life, con 2 tracce inedite, se non vado errato. Una di queste è A Deeper Sleep for Steven. E, parlando appunto di trionfo di chitarre, qui siamo nel solito, insomma, siamo in territorio shoegaze, e i Pale Saints avrebbero meritato qualcosina in più. Come testimonia questo brano ipnotico, sempre tratto da Mrs. Dolphin, intitolato Two Sick Sisters. Thank you. I Red Kite sono una band invece di Londra che vedono tra le loro fila tre chitarristi, due batteristi e immagino un bassista, anche se non viene citato nel loro sito. In realtà è una band che a quanto pare consiste di sei elementi e il moniker deriva da una diciamo citazione di Shakespeare che disse a suo tempo che Londra è una città di red kites e di corvi. In realtà il red kite è una specie che andò estinta. In latino si chiama Milvus Milvus. Venne così tanto perseguitata e cacciata che arrivò l'estinzione tra il XVIII e il XIX secolo e poi venne in qualche modo reintrodotta verso la fine degli anni Ottanta. E adesso si trovano appunto degli elementi, degli esemplari di questo volatile di nuovo tra i cieli di Londra dopo essere appunto scomparsi per qualcosa come 150 anni. I Red Kite sono Daniel, Nick, Jim, Joe, Nicholas e ci sono appunto diversi collaboratori che poi vanno a così dar manforte a questi cinque membri appunto per quanto riguarda i Red Kite che ci ascoltiamo dopo aver ascoltato il brano che conclude il loro esordio Racket che portava il titolo di Ian con un brano invece che porta il titolo di Facades. Thank you. Kite and Crow, un brano che riporta ai Pink Floyd degli esordi e che appunto è contenuto come i brani, due brani che abbiamo ascoltato prima, nel loro LP di esordio, ovvero Racket. In realtà c'era anche un disco, un EP che era uscito un po' di tempo prima, che porta il titolo invece di Songs for the Crow, e se volete vederli dal vivo, per il momento dal loro sito appare solo una data, e in quella di Bedford Esquires nel Regno Unito, quindi dovete fare un po' i salti mortali per andare a vederli se proprio ci tenete, ma credo proprio che in futuro li vedremo anche dalle nostre parti. E tornano dopo un'assenza di ben 15 anni dal precedente album anche i Glass Joe di Daryl Palumbo, e il nuovo lavoro, che porta il titolo di Material Control, ha una cosa un po' strana, magari è una cosa completamente casuale, però la traccia numero 6 che è in sottofondo porta il titolo di Bastille Day, e mentre il brano numero 7 si chiama Pompeii, e se ben ricordate c'è proprio una band piuttosto anche famosa, i Bastille, che hanno pubblicato qualche anno fa una hit dal titolo Pompeii, e ovviamente la musica che propongono i Glass Joe non è molto cambiato, c'è qualcosa di più sperimentale rispetto al passato. Questo brano è completamente strumentale, per esempio, e non sembra proprio un qualcosa che potrebbe provenire dai solchi di un disco dei Glass Joe, ma forse il brano che ci andiamo ad ascoltare tra pochissimo al termine di questo breve strumentale ci riporta sulle coordinate classiche della band di New York. Ancora un trionfo di chitarra in questa puntata di Up che volge verso il termine, e un nuovo disco per i Black Rebel Motorcycle Club. E il disco uscito il 12 gennaio, quindi per me è il primo disco del 2018 che propongo qui in trasmissione, e porta il titolo di Wrong Creatures. Questa era Ninth Configuration, e stavo controllando un po' il sito dei Black Rebel per vedere qualche novità, a parte i soliti la possibilità di comprarsi il box set del vinile. Non oso neanche controllare i prezzi di questo magnifico box set che contiene un po' di tutto, addirittura vinile chiaro, quindi di colore chiaro, un libretto di 52 pagine con i testi, una front cover alternativa, un'armonica a bocca, EP in nastro, cioè in nastro musica seta, insomma, con tre brani inediti, delle stampe, cioè veramente di tutto. Sembra addirittura che ci siano qualcosa che sembra dei fiammiferi, una scatolina. Probabilmente la cosa costerà tipo $100, ma vabbè, non oso neanche veramente chiedere, magari lo troverete alla fiera del disco domani, che si tiene a Pordenone domani e dopodomani, chi lo sa. E vedevo che c'è questo festival nel luglio di quest'anno che si tiene a Madrid tra il 12 e il 14 di luglio, all'Espacio Mad Cool. Infatti Mad Cool è il nome del festival, Valdebebas, e i nomi sono qualcosa di straordinario. Il primo giorno abbiamo i Pearl Jam, Tame Impala, Kasabian, Justice, Fleet Foxes, MGMT, Yo La Tengo, poi adesso vado un po' in ordine, Japan Droids, e dopo abbiamo i Red Cross, no scusate, Bad Bugs, stavo leggendo male. Poi ci saranno i Massive Attack, Franz Ferdinand, Snow Patrol, Alice in Chains, At the Drive-In, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails e una serie di altri nomi interessanti che vanno un po' a, beh, Black Rebel ovviamente, come dicevo, Future Islands. Bel proprio festival, appunto, a Madrid tra il 12 e il 14 di luglio, questo Mad Cool Festival. We'll be right back. E ci lasciamo con due brani eterei e in questo caso anche ipnotici. Questi si chiamano Gingerlys e sono usciti a metà novembre con l'album di esordio omonimo, da cui abbiamo ascoltato Mermaids, e dopo un'assenza di qualche anno. L'esordio vero e proprio era stato quello di un 7 pollici uscito nel 2014, e questi sono appunto i Gingerlys da Brooklyn. Mentre un paio di mesi prima era uscito invece l'ultimo lavoro per gli 100 Waters, che salutano dalla Florida, e l'album in questione porta il titolo di Communicating, ed è il disco che ci regala il brano di chiusura di questa puntata di Up, e anche il brano finale del loro album, quindi per gli 100 Waters. Nicky D'Andrea si congeda da voi, vi rimanda l'ascolto di Up della settimana prossima, probabilmente con Alberto Collino, e vi auguro ancora un buon weekend. Did I treat you?